Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La frase è la fine del mondo, andrei con te fino alla fine del mondo, è una frase figurata, però in un certo senso, se vogliamo, la fine del mondo potrebbe essere, soprattutto se vista da questa parte, dalla nostra Europa, la fine del mondo può essere la Patagonia, perché è alla punta estrema dell'America del Sud, è una landa desolata, fredda, battuta dai venti. Bene, in mezzo a questo luogo molto inospitale si alza una catena di monti e tra questi monti spicca una lama durissima di ghiaccio e granito, si chiama Cerro Torre o Cerro Torre. Non è una delle montagne più alte del mondo, arriva a 3133 metri, quindi non è altissima, però è considerata da tutti la vetta più inaccessibile, perché è veramente un grido di pietra lanciato nel cielo a combattere contro dei venti fortissimi e mutevoli che senza alcun preavviso arrivano a spazzare le pareti, che sono quasi delle pareti verticali. Insomma, il cerro è un monito verso gli uomini, una specie di ammonizione degna della scritta che secondo Dante era messa davanti all'ingresso degli inferi: lasciate ogni speranza voi che entrate. E anche il cerro pare che dica: da qui non si passa, nessuno può scalarmi. Oggi parliamo di un uomo che ha lottato contro questa montagna come nessun altro. È una lotta forse impari, però epica, una lotta che vogliamo raccontarvi. Parliamo di Cesare Maestri, che per due volte ha tentato l'impossibile, una lotta ad armi impari, come abbiamo detto, contro una montagna. Il regista tedesco visionario Werner Herzog ha definito il cerro in questo modo dopo averci girato un film. Questa montagna ha le qualità che si ritrovano solitamente solo negli esseri umani. Ha qualcosa di malvagio, di misterioso, di terribile. È il 1959, siamo ai primi di febbraio, l'estate australe, sono sei giorni che lo scalatore italo-argentino Cesarino Fava è rintanato nella cava che si è costruito nel ghiacciaio sotto la cima del cerro. Ormai le speranze di rivedere i compagni di spedizione tornare dalla vetta del cerro sono sempre meno e comincia con dolore a radunare le cose nello zaino e si avvia verso la valle. E poi però nell'immenso spazio bianco si accorge di un puntino nero in mezzo alla distesa di neve e si avvicina con il cuore che gli batte per la speranza e scopre che si tratta del suo amico Cesare Maestri, che è più morto che vivo. In stato confusionale riesce solo a dire tre parole: Tony, Tony, Tony. È così che comincia uno dei più grandi misteri dell'alpinismo negli ultimi decenni. Il Torre era nato come sogno e poi è diventato un incubo. Maestri racconta a Cesarino che con molte difficoltà lui e il suo compagno di cordata, il tirolese Tony Eger, sono riusciti a raggiungere la sommità del Cerro Torre, ma che scendendo Eger è stato travolto da una slavina ed è morto e ha trascinato con sé la macchina fotografica nella caduta. Insomma, non ci sono testimonianze, non ci sono prove a sostegno delle sue affermazioni, però l'alpinismo, ricordiamocelo, è uno sport di persone per bene e si dà per scontato che non sempre si riesce a portare via delle testimonianze dei successi, quindi nessuno si permette di dubitare della versione di Maestri, che ha rischiato la vita con un amico che invece è morto per sottomettere una delle cime più difficili del mondo. Maestri è un eroe in quel momento, è il più grande scalatore, quello che ha osato ed è riuscito a domare il cerro. D'altra parte il suo curriculum parla chiaro, il numero delle imprese portate a termine dall'alpinista trentino è impressionante. Perché dovrebbe mentire un uomo e uno sportivo del genere? Cesare Maestri è un uomo forte, un duro, tutta una vita che è stata un susseguirsi di prove dolorose, faticose, formative. Nasce a Trento nel 29, a 7 anni perde la madre per una brutta malattia, rimane affidato alle cure del padre, Tony combinazione. Un attore girovago che all'inizio della prima guerra mondiale diventa impiegato nella pubblica amministrazione. Quando l'Alto Adige finisce sotto l'occupazione tedesca, cioè nel 43, viene accusato di attività anti-austriache avvenute peraltro 25 anni prima e viene condannato a morte, perché allora si usava così. Tony fugge, porta con sé Cesare in un viaggio pericoloso, arrivano fino a Ferrara, poi vanno a Trento e qui Cesare, che ormai è già un uomo anche se ha 15 anni, si unisce a un gruppo di partigiani con i quali combatte la guerra che si combatteva in quegli anni. Alla fine della guerra viene mandato dal padre a studiare storia dell'arte a Roma, perché Tony spera che il figlio Cesare possa calcare il palcoscenico seguendo le orme di famiglia. Però a Roma Cesare non si sente a suo agio, pieno di inquietudini. Dopo 2 anni non ce la fa, torna nella sua Trento e alla smania che non si placa in nessun modo. Insomma, come terapia, se così possiamo dire, inizia a scalare le montagne. Non salgo per hobby. In tutta sincerità, ho iniziato perché non riuscivo a venire a patti con la società. Non riuscivo a capire come mettere a frutto la durezza che avevo acquistato durante la guerra, dentro uno scopo buono. All'inizio pensai di darmi alle corse automobilistiche, ma un giorno arrivai a Trento e venni portato a scalare. Da quel momento in poi ho deciso che l'arrampicata sarebbe stata la mia vita e il mio modo di esprimermi. E il suo modo di esprimersi. E infatti l'energia di Cesare sembra inesauribile. Da quel momento trascorre il suo tempo quasi tutto a scalare attorno a Trento, le Dolomiti di Brenta. Non ha solo una grande energia, ha uno stile diverso da quello di tutti gli altri, perché è aggressivo, è un anarchico, sceglie di scalare in solitaria, è insofferente nei confronti degli stili altrui che non sono al passo peraltro con le sue doti fisiche, che sono eccezionali, scelte dure. Per un alpinista lo stile è tutto, ne sa qualcosa Reinhold Messner. Ognuno di noi ha il diritto di usare il suo stile, non c'è lo stile giusto. Uno arrampica così, l'altro in un altro modo, e dico nel mio libro che ho un grande rispetto per l'anarchismo di Cesare Maestro, perché lui dice: io arrampico come voglio, e ha del tutto ragione. Il falco e il gabbiano. Le prime imprese importanti di Cesare Maestri risalgono al 51. C'è una solitaria che lui fa sul Monte Civette. I giornalisti chiedono a un altro grande alpinista le sue impressioni sull'impresa e lui risponde, parlando di Maestri, dicendo: supera passaggi e strapiombi con la stessa disinvoltura di un ragno che si arrampica su un vetro. Oggi lo chiamerebbero un free climber. Allora l'appellativo di ragno delle Dolomiti gli rimane appiccicato addosso. La naturalezza apparente della sua scalata però non deve trarre in inganno. Maestri non lascia nulla all'improvvisazione, al contrario. Prima in palestra, poi in parete, cominciai a sperimentare una nuova tecnica di salita artificiale che mi permettesse di alzarmi senza essere issato dal mio secondo. Provando e riprovando, riuscii a fare a meno anche dell'aiuto del compagno. In pratica, mi allenavo 24 ore su 24. Di giorno arrampicavo fino a farmi scoppiare i muscoli dalla fatica e di notte, per abituarmi al freddo, dormivo con la finestra aperta oppure con qualsiasi temperatura bivaccavo sul balcone di casa fra lo stupore dei coinquilini. Con Maestri l'alpinismo conosce sicuramente un'evoluzione. Come lui dice più volte, per lui scalare non è una questione di mistica, è il godimento di un paesaggio incontaminato da rimirare dalla vetta. Per lui l'alpinismo è una lotta fisica contro se stesso e contro la parete, è una battaglia che si combatte a botte, in metri di corda e in chiodi conficcati. Questo vuol dire che lui non si accontenta dell'eredità di un alpinismo tradizionale, cerca sempre di innovare le tecniche, e sarà la ragione per la quale di ritorno sul Serro Torre con la spedizione del 70 non si farà scrupolo di portare in quota un compressore per sparare i chiodi nel granito della montagna. Comunque, andiamo per gradi. Per tutti gli anni 50, Maestri, che nel 52 diventa guida alpina, continua a salire. Ormai arrampicarsi è il suo mestiere, diventa anche il titolo di un suo romanzo scritto nel 64. Sia in solitaria che con altri scalatori percorre le Dolomiti in lungo e in largo, però dopo un po' le Dolomiti le conosce troppo bene, cominciano a stargli strette, fino al 1957. E in quell'anno viene coinvolto in una spedizione in Patagonia guidata da Bruno De Tassis. La meta è il Serro Torre, la famosa montagna che nessuno ha scalato fino a quel momento e che dalla maggior parte degli alpinisti veniva considerata impossibile da conquistare. E lì non ci sono solo i trentini per cercare la gloria, perché nello stesso momento c'è un'altra spedizione che si avvicina al Serro, è guidata da un italo-argentino, si chiama Folco d'Oro Altan. In questa spedizione c'è anche un altro mito, Walter Bonatti. Mentre i trentini partono sul lato est del Serro, Bonatti e i suoi iniziano la scalata da sud-ovest. Però ben presto De Tassis decide che è impossibile continuare, anche se Maestri non è d'accordo. Da sud-ovest invece Altan e Bonatti riescono ad arrivare fino a qualche centinaio di metri dalla vetta, però devono abbandonare perché hanno esaurito i chiodi e le attrezzature. Bonatti la prende in un modo, cioè passa in fretta a pensare a nuove avventure, mentre per Maestri il Serro rimane una spina conficcata nel cervello, è un tarlo che continua a mangiargli dentro fino a quando non avrà una nuova occasione. Dal momento in cui Cesarino Fava mi ha chiamato scrivendomi quella famosa lettera «Vieni perché qui c'è pane per i tuoi denti», mi sono precipitato a Buenos Aires prima e poi in Patagonia. Sono subito rimasto incantato dalla bellezza di queste stupende montagne. Cesarino Fava è un alpinista italiano emigrato in Argentina e insieme a lui Maestri decide di riprovare la scalata al famigerato Serro Torre. Vuole coinvolgere un altro compagno, si chiama Tony Egger, è un tirolese nato in Italia, residente in Austria, è un esperto di ghiacciai, è l'uomo giusto secondo lui perché la vetta del Serro è sovrastata da una specie di cappello di ghiaccio, insomma bisogna saperla prendere, bisogna conoscere il ghiaccio. La spedizione parte da Buenos Aires il 21 dicembre del 58 e raggiunge la base del Serro 10 giorni più tardi, dopo un viaggio attraverso la Patagonia che è immensa, un viaggio fatto in camion, poi a cavallo e poi a piedi con un carico di 1000 chili. I 10 giorni successivi vengono impiegati per installare 3 campi, 750 metri, poi a 950 e poi a 1650 metri. Questo campo è su un ghiacciaio alla base della parete da saltare. Cesarino Fava ricorda la sensazione di questi tre alpinisti di fronte all'impresa. Il Torre per me è stata un'avventura meravigliosa, grandissima. Eravamo entrati in un mondo spirituale e io direi quasi mistico, come ti posso dire, una simbiosi con la montagna perfetta, era annullato il rischio. Eh sì, è un rapporto spirituale, mistico, dice lui, è così, beh, difficile forse da capire qui dal caldo di uno studio radiofonico nel centro di Milano, però questa è la grande avventura che questi uomini vivono, un'avventura anche interiore. Siamo alla fine del gennaio del 59, dopo giorni di maltempo finalmente si apre una finestra di tempo buono, viene lasciato Fava al campo e Maestri e Egger cominciano a scalare la parete ghiacciata del versante nord. Hanno 200 metri di 50 chiodi da ghiaccio, 50 chiodi normali e 50 a espansione. Il Cerro è lì che li attende impassibile. il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di un atteggiamento di vita spirituale, mistico, eppure di un atteggiamento di vita che è fatto di fatica, dolore, muscoli, freddo, insomma di alpinismo. E stiamo parlando di Cesare Maestri, il ragno delle Dolomiti, quello che ha aperto vie importantissime sulle montagne alpine, un grande sportivo, un grande atleta. Però Maestri soprattutto è conosciuto per il mistero legato al Serro Torre, la vetta impossibile della Patagonia, quella che lui dice di avere scalato nel 59. È salutato come il più grande di tutti gli scalatori al momento dell'impresa, però in pochi anni i dubbi cominciano a contaminare la sua reputazione. Cosa è successo sul Serro? Secondo il racconto di Maestri, l'arrivo in vetta avviene il 31 gennaio. Qui lui e Egger si fotografano con le picozze, che però non possono lasciare sulla cima perché hanno bisogno delle picozze per ancorarsi contro il vento fortissimo, perché oltre ad arrivare su poi bisogna scendere. A un certo punto arriva un vento caldo, quindi è impossibile usufruire di nuovo del ghiaccio sulla via del ritorno, quindi i due scendenti sono costretti a schivare le slavine che scendono dalla cima. Li aspetta una discesa difficilissima, terribile. La notte riposano qualche ora, il giorno dopo in 10 ore scendono solo di 400 metri con la neve che è ridotta in poltiglia. Il 2 febbraio arrivano verso le 19 a 150 metri di distanza dalle corde fisse che hanno lasciato precedentemente e decidono di trascorrere lì la notte. E il resto del racconto lo lascio fare alle parole scritte da Maestri, parole pubblicate dal Corriere della Sera. Cominciamo a fare il buco per passare la notte, ma Tony, questo posto non sembra tanto sicuro. Vuole vedere se c'è una sistemazione migliore fuori dal tiro delle valanghe. Mentre lo calo ed egli è arrivato a una quindicina di metri da me, un rumore assordante mi fa alzare il capo. Un'enorme massa di neve e ghiaccio si stacca dalla cima. Urlo: «Attento, Tony!» e mi appiattisco contro la parete. Un colpo sordo e la corda si tende. Tony è investito e coperto dalla valanga. Un pezzo di ghiaccio mi colpisce duramente alla testa. La tensione della corda diventa insopportabile, poi si rilascia. Chiamo Tony. Nessuno risponde. Non rimane nessuna speranza. Beh, sono momenti terribili, terribili. Tony Egger non c'è più, è stato trascinato nel baratro. La mattina dopo Maestri, che è convinto che ormai farà la stessa fine del compagno, si avvia verso il campo. A un certo punto gli scivolano i piedi, cade per una decina di metri, però la neve che è caduta nella notte attutisce la caduta. Insomma, in qualche modo si trascina non lontano dal campo dove viene raccolto da Cesarino Fava. È quasi in fin di vita. Appena si diffonde la notizia, l'impresa di Maestri appare eccezionale, fa il giro del mondo, e anche se il corpo di Egger, che aveva la macchina fotografica con sé, non viene ritrovato, quindi in assenza di prove visive, nessuno dubita delle parole di un alpinista, della sua fama, della sua esperienza, un uomo d'onore. Ripeto, l'alpinismo è uno sport di uomini d'onore, quindi lui viene accolto come un eroe al suo ritorno in patria, riceve una medaglia, gli onori di chi è riuscito in qualcosa che era giudicato impossibile. Il Serro Torre era stato finalmente conquistato. E le cose vanno avanti così per un po', fino al 1968, quando una spedizione inglese viene costretta a rinunciare e arrivare in vetta al Serro, nonostante abbia scelto una via apparentemente più facile di quella percorsa da Maestri e Egger. E allora comincia a insinuarsi il dubbio, dubbio che viene ripreso da una rivista inglese illustre, il Mountain. Di fronte a delle insinuazioni che cominciano a sommarsi, Maestri, che ha un temperamento focoso, decide che i dubbi sono un'offesa, che l'offesa la può lavare solo in un modo, cioè scalando di nuovo il Serro. Sentiamo cosa ne pensa Messner di questa decisione, insomma un po' guascona di Maestri. L'osservatore Cesare, con la sua scrittura, dice che lui non aveva dubbi, lui andava lì a conquistare questo torre o moriva o faceva la cima. Purtroppo queste parole forti non hanno poi aiutato a pulire le pagine, perché queste parole poi sono la dimostrazione che qualche cosa non funzionava. Dunque, nell'estate del 1970, Maestri si presenta di nuovo davanti al suo amico nemico, al suo spettro, al suo incubo, davanti al Serro, con una spedizione composta da altri 5 alpinisti italiani. Questa volta, quasi per alimentare le polemiche invece che spegnerle, sceglie di salire per una via diversa da quella percorsa la prima volta. E non solo, porta con sé un pesante compressore per sparare i chiodi a pressione nel granito della montagna. Insomma, forse colpa del suo carattere anarchico, però come scrive Stefano Ardito nel libro Le grandi scalate che hanno cambiato la storia della montagna, Maestri riparte scegliendo la via più difficile, la stagione più dura e uno stile più provocatorio. Senza contare che issare un compressore è un lavoro bestiale, dice lui, è un lavoro faticosissimo, un lavoro bestiale che lo stesso Maestri racconta nel suo libro Il ragno delle Dolomiti. Forando a mano il granito si sale con una velocità di 3 metri all'ora. In verità potremmo constatare che il tempo impiegato nel recupero del compressore, che veniva effettuato con manovra manuale ogni 40 metri, ci faceva perdere oltre 4 ore, e questo annullava il vantaggio di una chiodatura rapida. In totale Maestri spara circa 400 chiodi negli ultimi 350 metri verso la vetta. Poi inspiegabilmente si ferma sotto al grande blocco di ghiaccio che sovrasta la cima del monte, perché sostiene il fungo di ghiaccio non fa veramente parte della montagna. Un giorno o l'altro cadrà. Per continuare col suo atteggiamento provocatorio, scendendo rompe i chiodi degli ultimi 30 metri, lasciando sull'ultimo chiodo utile il compressore appeso con le corde, una specie di monito a chiunque volesse sfidarlo. E sarà per questo stile aggressivo con il quale ha affrontato di nuovo la scalata, forse per colpa di una certa ingenerosità del mondo dell'alpinismo. Di fatto questa nuova impresa di Maestri viene bollata come una bravata, e c'è chi arrivò a definirla, per via dell'uso del compressore, come prendere una funivia per salire in cima al Monte Bianco e poi illudersi di averlo scalato. Insomma, non è esattamente così, eh? Però la via di Egger Maestri, che verrà chiamata così da allora, detta anche Compressor Route, è stata seguita da altri grandi alpinisti, tanto che Giorgio Spreafico nel suo libro Enigma Serro Torre scrive così: viene spontaneo interrogarsi su una paradossale beffa, sul fatto che una stessa e pur discussa via ha fatto del suo apritore, cioè dell'uomo che ha affrontato più difficoltà, più rischi e più fatiche di ogni altro, il bersaglio di furibonde accuse, mentre è riuscita puntualmente a trasformare in eroi senza macchia e senza paura i suoi ripetitori, susseguitisi nel tempo, scalatori che hanno usato i chiodi di Maestri e dunque indirettamente anche il suo compressore. Eh sì, per seguire il paragone di prima, a me sembra che Maestri la funivia l'ha costruita e sono gli altri poi che ci vanno sopra allora. Ma Maestri è così, è un uomo duro, è schietto, impetuoso, probabilmente è rimasto prigioniero del suo mito, del suo sogno che è diventato incubo, quello del Serro Torre, la montagna che gli ha dato tanto ma gli ha anche tolto tantissimo. Quando mi chiedono qual è il sogno nel mio cassetto, io dico sempre che il torre crolli. Ho avuto una vita stupenda, meravigliosa, con tante cose belle, molte cose brutte come è nella vita. Quindi io non mi lamento, io sono un uomo senza rimpianti. Ecco, l'unica cosa che io non rifarei nella mia vita è quello di andare al torre. Eh sì, perché la seconda scalata di Maestri al Serro, invece che ripulire la sua reputazione, quasi la rovina, fallisce proprio nel tentativo di ribadire la veridicità del primo viaggio, e poi non viene considerata valida perché lui non vuole scalare il fungo di ghiaccio. Insomma, il risultato è che un uomo che nella sua vita ha scalato 3.500 cime, ripeto, 3.500 scalate, torna in Italia stanco e un po' screditato agli occhi della comunità. Insomma, è un epilogo che Maestri non merita assolutamente. Nel 74 c'è una spedizione di rocciatori lecchesi guidati da Casimiro Ferrari che raggiunge la vetta del Serro dalla parete ovest e produce questa volta prove inconfutabili. E per tutti, compreso Reinhold Messner, l'impresa di Ferrari è considerata la vera conquista della montagna più difficile del mondo, ritenuta impossibile da scalare fino a quel momento, e in quell'impossibile c'è un implicito parere negativo nei confronti di Cesare Maestri. Il fatto che c'è un dubbio sulla salita del 59 non ha rubato nessun pizzico del mito del Serrotore. In realtà il mito è cresciuto con questa impossibilità di salire quella montagna lì in quegli anni lì. Non era possibile salire il Torre nel 59 per nessuno al mondo. È chiaro che lui non è andato su per chiarire poi i fatti, le immondizie che lasciamo tutti sulle montagne purtroppo sul Serro Torre mancano, e così la dimostrazione c'è. Ecco, io avanzo un'altra ipotesi da profano: e se le avesse spazzate via il vento, le immondizie, dopo tanti anni? Ma Maestri deve sopportare altre amarezze sempre legate al Serro Torre. Nel 91 Werner Herzog decide di girare un film basato su una storia ideata da Reinhold Messner, una storia che si ispira alla scalata di Maestri e Egger. Il film si chiama Grido di Pietra con Vittorio Mezzogiorno. In quell'occasione Herzog, in maniera del tutto arbitraria, fece rimuovere il compressore con un elicottero. Insomma, Herzog faceva di queste follie. L'intera comunità degli scalatori protestò, fece reinstallare l'apparecchio dove era stato per 20 anni. Più tardi, nel 2012, due giovani scalatori americani, in polemica con Maestri, schiodarono la via del compressore. Pensa che geni questi, vabbè. Con l'intenzione di restituire purezza alla montagna, e quindi vanificando tutto il lavoro precedente. Insomma, le polemiche continuano a circondare il Serro. In qualche misura, però, quando si parla del Serro si parla sempre di Cesare Maestri, che è rimasto indissolubilmente legato, nonostante tutto, a quella montagna. Io considero il Torre la montagna più grande della mia vita, però mi ha dato tanti di quei dolori che, se potessi avere una bacchetta magica, la farei sparire dalla faccia della terra. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala volando oppure arrampicandosi, come Cesare Maestri, che ha scalato migliaia di montagne e che è rimasto segnato da una montagna che ha rappresentato il suo sogno, il suo incubo, la sua sofferenza, le sue amarezze, che personalmente ritengo immeritate. Insomma, Maestri comunque lì c'era. Ci sono storie di persone che hanno saputo volare in alto e persone che hanno pagato caro anche il loro arrampicarsi verso le vette. Se avete delle altre vicende che volete che io racconti, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, oppure scrivetemi sui nostri social, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.